secondo appuntamento del podcast del 5LB Magazine. Io sono Eleonora Meloni. Oggi Mauro vi parlerà della prevenzione in occasione della prima edizione della Settimana della Salute della Donna Open Week 2016. Molti ospedali distribuiti su tutto il territorio nazionale mettono a disposizione gratuitamente diversi screening per la donna. E questa iniziativa inizierà dal 22 di aprile. Ciao Mauro! Ciao Eleonora, sì, oggi parliamo di prevenzione, quella che viene chiamata secondaria, ovvero la diagnosi precoce, in occasione della Settimana della Prevenzione per la Donna. E faremo la distinzione tra come si può considerare prevenzione nel mondo delle 5 leggi biologiche e come si considera la prevenzione generalmente. I media faranno sicuramente una comunicazione molto forte, dove la parola prevenzione sarà la parola d'ordine, sarà prevenzione prima di tutto, passando un po' il messaggio che più si fa e meglio è, più ci si controlla e più ci sono meno rischi, come quando si fa il controllo dell'automobile dal meccanico e quindi più si controlla e più si è sicuri che non ci saranno problemi. In realtà scopriremo che anche a livello scientifico questo fatto non è vero, cioè che più si interviene, più si controlla e meno rischi ci sono, è un po' la vecchia scuola della prevenzione che però non ha riscontro nelle evidenze scientifiche. Vi leggo ora un articolo che ho scritto qualche mese fa proprio sulla prevenzione che ci fa capire qual è l'idea di prevenzione nel mondo delle 5 leggi biologiche e poi qual è effettivamente, e non a livello mediatico, il concetto di prevenzione oggi in base alle evidenze scientifiche. Il mito inossidabile del prevenire è meglio che curare. Se il concetto di prevenzione nel paradigma sanitario attuale ha un senso, perché è importante immunizzarsi dai microbi e perché si può intervenire prima che un malanno ci colga di sorpresa, nel paradigma delle leggi biologiche questo senso non c'è. Non è infatti logicamente possibile prevenire una DHS, cioè un evento inaspettato che prende in contropiede l'organismo. Prevenire l'imprevisto è un ossimoro, è un paradosso. Nella vita l'unico modo per evitare l'imprevisto è non esistere. Se invece il corpo fosse già in una fase attiva asintomatica della curva bifasica, e lo siamo tutti, bene o male, anche prevenire la soluzione sintomatica non sarebbe possibile, perché la conflittolisi capita comunque in modo inaspettato. Questa sarebbe inoltre desiderabile, e al limite la PCL può essere accompagnata nel migliore dei modi lungo il suo decorso. Forse, e a volte, solo la CIE può essere prevista. In sostanza, comportarmi bene non mi metterà nelle condizioni di non fare conflitti. Ma l'accezione di prevenzione in medicina ha anche un altro significato: rilevare in una fase precoce una anomalia. Allora penso, se prendo in tempo questa anomalia e la tratto in anticipo, il rischio che diventi qualcosa di più pericoloso è limitato. Sapere prima potrebbe effettivamente aiutarmi. E mi dico, è quindi importante che io segua i consigli delle istituzioni e mi sottoponga agli screening di massa e ai check-up completi, che spesso la sanità pubblica mi mette a disposizione anche gratuitamente. In questo modo sto tranquillo, come quando ho appena fatto il tagliando all'automobile e sono abbastanza certo che non avrò problemi nel prossimo futuro. Questo è un ragionamento che facciamo o che abbiamo fatto tutti, così logico ed evidente, che però ci dimostra quanto l'evidenza sia relativa, perché in effetti è solo un ragionamento, ma è fallace. Infatti le evidenze scientifiche ci dicono altro. Uno studio di Cochrane del 2012, che puoi trovare linkato nell'articolo, ha revisionato 16 ricerche che hanno coinvolto circa 200.000 persone sulla efficacia delle visite di controllo di routine per persone in salute e generalmente non a rischio. I risultati sono stati, testualmente, i controlli generali sulla salute, nelle persone sane, non riducono gli stati patologici o la mortalità, né in generale, né per cause cardiovascolari o per cancro, nonostante il numero di nuove diagnosi aumenti. Esiti nocivi importanti, come gli interventi di procedura in seguito alla diagnosi o gli effetti psicologici a breve termine, spesso non sono studiati o non sono segnalati, e molti di questi studi hanno difetti metodologici. Visto il gran numero di partecipanti e il numero di decessi, visti i lunghi periodi di analisi utilizzati e considerando che la mortalità per cause cardiovascolari e cancro non è stata ridotta, è improbabile che le visite di controllo generali sulla salute diano un beneficio. Questo è lo studio di Cochrane, è la conclusione dello studio. È quindi improbabile che fare prevenzione ad ampio raggio, come è generalmente consigliato, possa portare benefici, o perlomeno non c'è evidenza scientifica che sostenga di consigliarlo. Tuttavia questo studio ha indagato solo l'efficacia, ma non ha potuto indagare i possibili effetti avversi dei controlli periodici. Per questi ultimi ci sono numerosi altri studi che entrano nello specifico di ogni tipo di controllo. Devo dire che nel database di Cochrane è stato difficile trovare screening che risultassero nettamente efficaci rispetto ai rischi. Alcuni lo sono in caso di persone a rischio, tra virgolette, evidenziando il fatto che il controllo a tappeto è uno strumento molto debole. Ci sono invece numerose ricerche che certificano l'insostenibilità del rapporto rischi-benefici. Abbiamo già parlato degli screening mammografici e del perché oggi è ragionevole non farli. E abbiamo anche già parlato, sempre sul 5LB Magazine, dei controlli di routine alla prostata, dove il test del PSA non ha alcun beneficio, ma anzi ha un 20% di falsi positivi. E abbiamo parlato anche dei controlli regolari a raggi X dei polmoni, dove non c'è alcun beneficio e c'è un forte rischio di sovradiagnosi, un po' meno quando viene fatto con la TAC. Ma in generale l'argomento sovradiagnosi è molto trattato sul 5LB Magazine, e puoi trovare il link di queste ricerche all'interno dell'articolo. Quindi, prevenire è meglio che curare per le persone in salute è un falso mito e anzi comporta dei rischi. Ora, non si pensi che le analisi cliniche di per sé siano inefficaci. È anzi importante seguire quelle prescritte dal medico in caso di fisiologia speciale in corso e per alcune categorie di persone cosiddette a rischio, da verificare caso per caso le evidenze scientifiche disponibili. Per esempio, se avessi avuto un sintomo che mi avesse portato a fare indagini, come una tosse che avesse permesso di rilevare un nodulino al polmone, dovrei sottopormi ad alcuni controlli regolari per verificare se il nodulo è in crescita, quindi in forte fase attiva, se è stabile, in una fase attiva costante, in riduzione, quindi in PCL, o se è concluso, magari già incistato. Perché quando si ha in mano un reperto clinico, il medico può individuare la posizione dell'organismo sulla curva bifasica in quel momento, ma è necessario fare controlli successivi per conoscerne la dinamica e sapere se vale la pena intervenire o meno. Infatti il singolo esame riproduce una fotografia statica che non può dire nulla sulla direzione del decorso. In questo periodo storico in cui la sanità pubblica è in grande difficoltà per i tagli ai finanziamenti governativi e perché viene progressivamente fagocitata dal capitale privato, è certamente importante che emergano tutte quelle evidenze scientifiche disponibili che possano ridurre lo sperpero in attività di dubbia efficacia sociale per indirizzare le risorse in quegli ambiti che ne hanno più necessità.